Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 12 Chi fossero quelli che seguirono David quando fuggiva da Saul, e quelli che vennero di poi da tutte le tribù ad Hebron per farlo re. Questi pure andarono a trovar David in Sisleg, mentre egli era tator a Fuggiasco per paura di Saul figliuolo di Cisseoi, ed erano uomini fortissimi e illustri nel mestiero delle armi, abili a tendere l'arco e a scagliar sassi con la fionda con ambedue le mani, e a tirar diritte le frecce. Erano congiunti di sangue con Saul, e della tribù di Beniamin. Il principale era Jezer, e poi Joas, ambedue figliuoli di Sama di Gabbad, e Jeziel, e Fallet, figliuoli di Asmut, e Baraka, e Jehu di Anatot. E Samaia di Gabaon, il più valoroso dei 30, e capo dei 30, Geremia, e Jeziel, e Johanan, e Josabad di Gaderot. E Deluzai, e Gerimut, e Baalia, e Samaria, e Safatia di Aruf. E Elcana, e Yesia, e Azareel, e Joeser, e Jesban di Karim. E Ioela, e Zabadia, figliuoli di Geroam di Gedor. Parimente della tribù di Gad si rifugiarono presso David, quando egli stava nascosto nel deserto, uomini fortissimi, e campioni valorosi, armati di scudo, e di lancia, egli aveano facce come di lioni, ed erano snelli, come le capre di montagna. Il principale di essi Ezer, Obdia il secondo, il terzo Eliab, il quarto Masnana, Jerimla il quinto, Eti il sesto, Eliei il settimo. Johanan l'ottavo, Elzebad il nono, Geremia il decimo, Macbana il undecimo. Questi erano della tribù di Gad, principi dell'esercito. Il minimo di essi aveva il comando di 100 soldati, il massimo di 1000. Questi sono, che passarono il Giordano il primo mese, quando egli suole uscir del suo letto, e soverchiar le sue rive, e posero in fuga tutti quelli che stavano nelle valli dalla parte d'Oriente e da quella d'Occidente. Vennero anche di quelli di Beniamin e di Giuda a quel sito forte, dove stava David. E David andò loro incontro, e disse, «Se voi con buon fine siete venuti da me a porgermi aiuto, il mio cuore sarà unito col vostro, ma se voi mi tendete insidie, secondando i miei avversari, mentre io ho pure le mani da ogni peccato, siane testimone, e giudice il Dio dei padri nostri». E Amasai capo dei 30 mosso dallo spirito, disse, «Noi siam tuoi, o Davide, e siam con te, o figliuolo di Isai, pace, pace a te, e pace a quelli che ti porgono aiuto, però che il tuo Dio ti porge aiuto». Davide allora li accolse, e li fece dei principali nelle sue schiere. Venner pure di Chech di Manasse a Davide, mentre egli era in cammino con Filistei, per combattere contro Saul, ma egli non combatté insieme con loro, perché i principi dei Filistei, tenuto consiglio, lo rimandarono indietro, dicendo, «Egli si riunirà col suo signore sulla spese delle nostre teste». Or quando egli fu ritornato a Sisleg, si rifugiarono presso di lui di quelli di Manasse, Ednas, e Josabad, e Jediel, e Michael, ed Ednas, e Josabad, ed Eliu, e Salati, i quali comandavano a 1000 uomini di Manasse. Questi diedero aiuto a David contro i ladroni, però che erano tutti uomini fortissimi, e furono fatti i principi nell'esercito. E ogni giorno veniva gente a David in suo soccorso, onde egli ebbe finalmente un grande esercito. Questo è parimente il numero dei capi dell'esercito, i quali andarono a trovar David mentre era in Hebron, per trasferire a lui il regno di Saul, secondo la parola del Signore. Figliuoli di Giuda armati di scudo, e di lancia, e in ordine per combattere, 6.800. Figliuoli di Simeon uomini fortissimi per la guerra, 7.100. Figliuoli di Levi, 4.600. Ioiada principe della stirpe Aaron avea secco 3.700 uomini. Parimente Sadoc giovinetto di ottima indole venne con la casa del padre suo, e con 22 capi di famiglie. dei figliuoli di Benjamin fratelli di Saul, 3.000, perché una gran parte di essi seguiva tuttora il partito della casa di Saul. Figliuoli di Efraim, 20.800 uomini fortissimi, e di gran nome nelle loro famiglie. E della mezza tribù di Manasse, 18.000 scelti nominatamente a uno vennero a creare re Davide. E dei figliuoli di Issacar vennero degli uomini sapienti, i quali sapean discernere ciascnedun tempo, a fine di indicare quel che dovesse fare Israele. Erano 200 principi, e tutto il resto della tribù si rimetteva al loro parere. Quelli di Zabulon esercitati nella guerra, e armati come in ordine di battaglia, vennero in aiuto in numero di 50.000 con un sol cuore. E di Neftali 1.000 principi, e con essi 37.000 uomini armati di scudo, e di lancia. Parimente di Dan, 28.600 preparati come per dar battaglia. E di Aser 40.000 buoni per la guerra, e pronti a menar le mani. E di quei di là dal Giordano, dei figliuoli di Ruben, e di Gad, e della mezza tribù di Manasse, 120.000 ben armati per combattere. Tutti questi uomini guerrieri pronti a combattere, con ottimo cuore si raunarono in Hebron per creare Davide re di tutto Israele, ma oltre a questo, tutti parimente gli israeliti concordavano su questo punto di fare re Davide. E si trattennero ivi presso Davide 3 giorni mangiando, e bevendo, avendone fatte le provisioni i loro fratelli. Di più i vicini, e fin quelli di Issacar, e di Zabulon, e di Neftali portavano pane da mangiare sopra gli asini, sopra i cammelli, e i muli, e i buoi, e farina, e fichi secchi, e uva passa, e vino, e olio, e bovi, e arieti in grande abbondanza, perché il gaudio regnava in Israele. Note, 12,1-2, questi pure andarono a trovar David in Saisleg, Ici. Fa meraviglia il vedere uomini di gran valore e reputazione della tribù e del sangue di Saul, abbandonare il partito di questo re per andare a trovare un uomo di altra tribù, fuggitivo ed esule dal suo paese, che vive all'ombra della protezione di un re infedele. Questi beniamiti sono differenti da quelli, i quali si unirono a David dopo la morte di Saul, e i quali sono rammentati v. 9, ma il numero e la condizione di questi, i quali, vivente Saul, preferirono un esule a un sovrano potente, fa vedere insieme la provvidenza di Dio verso del giusto, e quello che possa guadagnare i cuori degli uomini una vera e sperimentata virtù. Il re di Gat aveva data Saisleg a David, perché ivi soggiornasse coi suoi. 12,4. Il più valoroso dei 30. Si è già notato, 2. Regione 23. 8.13. Che questi valorosi ufficiali si dicevano i 30, qualunque fosse il numero di quelli che erano ascritti in quella schiera. 12,8. Snelli, come le capre di montagna. Gli antichi tenevano gran conto dell'agilità nel soldato, e per questo avvezzavano i novizi soldati alla corsa. 12,14. Il minimo di essi avea il comando di 100 e ci vuolsi intendere, che David divenuto re istituì, che i più valorosi di questi ufficiali avessero il comando di 1.000 uomini ciascuno, e i men valorosi, di 100. Davide in Saisleg non avea più di 600 soldati. 12,15. Il primo mese. Risponde parte al marzo, parte all'aprile. Allora il Giordano gonfia e soverchia le sue rive a motivo delle nevi, che si struggono sulle montagne. 12,16. A quel silo forte, Ici. Nel paese di Mob, dove Davide si era ritirato, 2. 3 XXII. 4. 12,18. Mosso dallo spirito Ici dallo spirito di Dio, da istinto superiore e divino. 12,21. Contro i ladroni. I quali avean saccheggiata Saisleg. Un reg, XXX. I, 2. 12,27. Joiada principe della stirpe di Aaron. Ei non era sommo sacerdote, ma principe della schiera militare di quella. 12,28. Sadoc giovinetto e Cisol lo aveva fatto sommo sacerdote, e Davide lo mantenne nella sua dignità, onde si videro per la prima volta due sommi sacerdoti, Abiatar e Sadoc. 12,32. Uomini capienti, i quali sapean discernere ci. Sono molto divisi tra loro gl interpreti nello spiegare di qual genere di scienza fossero ornati questi 200 uomini, i quali a nome di tutta la tribù di Issacar si presentarono a David in Hebron. A me sembra che le parole stesse del nostro testo dicano assai chiaramente che erano uomini forniti di gran prudenza nel maneggio dei pubblici affari, persone di buon consiglio, capaci di discernere quello che più convenisse in tal occasione al ben generale della Repubblica e al particolare della loro tribù. Egli non avean perciò piena potestà di agire e risolvere come rappresentanti e ambasciatori della stessa tribù nel caso della elezione del nuovo re.